calpestata io la vea nella tua barca, l'unica tua, nel tuo cuore, nel sangue olivastro già imbrattato di amore. Abbracciata io la vea abbracciata la tua serena stanca voce. Da uomo che carpisce io ti cerco e tu lo sai, io ti cerco e tu lo sai, e non muovi l'aria per raggiungermi. Sento gli strilli degli angeli che corrono dietro di me, sento gli strilli degli angeli che vogliono la mia salvezza, ma il sangue è dolce a peccare e vuole la mia salvezza, gli strilli degli angeli che vogliono la mia salvezza, che vogliono il mio peccato, che vogliono che io cada imberbe nel tuo sangue, strillo di angelo. Sento gli strilli degli angeli che dicono addio, l'ho sverginato io, ritorno questo pomeriggio. Sento i pomeriggi farsi slavati d'amore e di senso, sento i pomeriggi protestare, sento gli angeli turpi chiamarmi alla pietà, sento la linfa ripiegarsi indietro ai padri stanchi. Sento la pietà coinvolgere me, tutta la pietà, tutta la mensa preparata agli abissi della pietà, all'inno nazionale decaduto, all'abisso della volontà. Sento la lumaca spartire il suo sangue con i grumi più innocenti della terra bassa, fonda, disparita. Sento l'innocenza trasformarsi in malattia, sento l'inferno impossessarsi dei migliori. Nessuno sa chi ci ha messo le briglie in bocca o chi ci ha tolto i cuscinetti dalla carrozza, dalla sala aperta a tutti i fenomeni, purché tu vi entrassi chiuso con le briglie in mano. Pertanto tutto si compie parimenti, uguale alla pioggia amica e leggera, uguale alla tempesta leggera e pesante, uguale al sole che batte trionfante di pena, o elefante di gran pena, tu sole che corri come se io non ci esistessi, o albero teso, o particella immensa, o lunario da quattro soldi, o amico leggero, o amico pesante, o città cannoniera, o trionfante blusa del miglior amico che si vende purché tu non scenda le scale, o albero ignoto, o rovina degli sguardi, o gli rovinati attorno, o gli rovinati sguardi attorno, o amore che mi tieni fervide blu fuori dal mondo, che non regge al suo tintinnio di merce buttata dal mercante, o puttana dalle meravigliose orecchie, o catrame che non si svincolò così presto dalla terra, o palazzo della carità, più morta che viva, più viva che savia, più morta che savia, più reale della tua luce improvvisa.